Siamo con Riccardo del centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino per parlare della rassegna Forte Piano al secondo appuntamento con Davide Viviani in live acustico il prossimo 18 aprile. Riccardo, ben trovato. Ciao, buongiorno. Allora, raccontiamo un po' di questa rassegna. Come no? Allora, la rassegna Fortepiano è in termini sintetici una rassegna di concerti acustici, per lo più in solo. Diciamo che l'idea di partenza nasce dalle caratteristiche specifiche del teatro Forte, il teatro del Forte Prenestino, che come moltissimi dei laboratori del Forte Prenestino ha una conformazione che gli dà un'acustica particolare e quindi ci è venuta la voglia di vedere come funzionava diciamo così, un concerto in unplugged, per così dire, dentro uno spazio che ha una risonanza tutta particolare. Molto presente, diciamo. Sì. E quindi abbiamo provato con il primo appuntamento in cui c'era Francesco Di Bella che si è prestato a questo, diciamo, esperimento e l'esperimento è venuto molto bene, quindi abbiamo messo Francesco Di Bella al centro della scena teatrale, abbiamo, diciamo così, fatto sedere le persone intorno a lui. Il concerto sostanzialmente è quasi senza amplificazione, facciamo diciamo una ripresa più che altro ambientale solo per appunto rinforzare l'acustica stessa del teatro. E questa è l'idea di base della rassegna. Adesso mercoledì da Brescia arriva Davide Viviani che ha fatto il suo secondo disco che si intitola L'Oreficeria e è un cantautore molto bravo nello scrivere i testi. Molto curato sia nella parte di testi che in quella musicale e ha una magia particolare quando suona da solo perché suona con una chitarra classica e quindi diciamo c'è una tensione speciale ed è quel tipo di cose che noi cerchiamo proprio per Fortepiano perché ecco, portare la musica a teatro crea una tensione particolare, un'attenzione sulla musica molto molto molto forte e quindi insomma viene fuori un live molto intenso. Senti, gli strumenti previsti quali saranno in questa rassegna? Ma fondamentalmente al momento stanno arrivando tutti con delle piccole chitarre acustiche o classiche. Come dicevo prima, stiamo cercando di evitare la presenza di amplificatori proprio per dare il giusto peso, cioè proprio per rendere il più umano possibile, il più diretto possibile l'interazione tra il cantautore e chi l'ascolta. Per questo facciamo sedere le persone intorno alla persona che si sta esibendo, lo lanciamo nel vuoto della scena teatrale, nel buio della scena teatrale, con un faro solo su di lui. Diciamo, stiamo cercando di mettere il cantautore di turno, per così dire, in difficoltà, nel senso che poi avere chi ti sta ascoltando proprio lì sotto i piedi ed essere lanciato dentro una scena teatrale è una cosa che insomma, anche per esperienza personale so essere molto difficile da gestire, può essere difficile da gestire. E quindi vogliamo mettere il cantautore in difficoltà e l'ascoltatore nelle condizioni migliori di andare proprio a cercare i minimi particolari dentro un brano. Riccardo, quali sono i criteri di scelta dei musicisti? Ma allora, i criteri sono molto semplici, diciamo che dalle proposte che ci arrivano noi andiamo a caccia di quello che diciamo così, unisce nel migliore dei modi il testo e la musica. È chiaro che ecco, poi in una performance del genere la musica si riduce a qualcosa di molto scarno, però è proprio l'equilibrio tra parole e musica, è proprio nell'equilibrio tra parole e musica che noi cerchiamo quel quid che ci permette di insomma, di ritrovarci di fronte a qualcuno che ha qualcosa da dire, insomma, che sappia pesare bene le parole, che sappia utilizzarle molto bene. Infatti, con Davide Viviani giochiamo sul sicuro. Lui ha una forte collaborazione con Marco Parente, che è un altro cantautore importante per la scena italiana da anni. E, a maggio, il 9 maggio, ci sarà Paolo Zanardi, invece, che è un tipo di cantautore completamente diverso. Però anche lui, quando decide di dire qualcosa, lo dice in una maniera molto particolare, in una maniera molto forte. Quindi diciamo che stiamo cercando di far pesare di nuovo le parole anche in contesti prettamente musicali, che è una cosa che spesso, insomma, col marasma di musica che si produce oggi, si perde. Sì. Per chi è all'ascolto, Riccardo, e non conoscesse l'esperienza Forte Prenestino, come la descriveresti brevemente? L'esperienza Forte Prenestino è un'esperienza ultra trentennale, ormai è uno dei centri sociali più vecchi e mi sento di dire anche più importanti in Italia, ma probabilmente non solo. È un luogo magico per tutti, sia per chi lo frequenta da 30 anni come me, per esempio, sia per chi ci mette piede per la prima volta. All'interno del Forte Prenestino si sperimentano tipi di relazioni e di collaborazioni sempre nuovi, insomma è un organismo sempre in divenire, nel corso degli anni è cambiato tanto e continuerà a cambiare secondo, diciamo, le persone che lo vivono e che lo animano e tutto ciò che è successo, che succede fuori, il contesto esterno. All'interno vede una miriade di laboratori, il teatro appunto, ma c'è anche un cinema, c'è una cucina popolare, c'è un'enoteca, c'è un birrificio, c'è una serigrafia, una cieca officina, insomma le esperienze si contano, nascono in continuazione. È un luogo molto bello, in particolare in questa stagione, devo dire, perché è arrivata finalmente la primavera. E se tra i tuoi ascoltatori c'è chi non ci ha mai messo piede, gli consiglio di cogliere assolutamente qualunque occasione, non ultima appunto Fortepiano, magari per andarlo a visitare, farsi un giro e fare tutte le domande del caso, insomma, visitare i sotterranei, insomma, di cose da fare lì dentro ce ne sono tante. Tornando alla rassegna, è un appuntamento della settimana fisso, c'è già un calendario programmato, c'è un giorno particolare? Allora, noi lo stiamo facendo orientativamente il mercoledì, non lo facciamo tutti i mercoledì, stiamo cercando di dargli una scadenza quindicinale. Non è sempre possibile farlo per una serie di fattori, non ultimo, come dicevo prima, le tante attività del Forte Prenestino. Per esempio, ecco, noi facciamo una data mercoledì 18, poi la prossima sarà il 9 maggio con Paolo Zanardi e nel frattempo chiaramente il 25 aprile e il 1 maggio rendono il Forte Prenestino un luogo in pieno fermento, perché il 1 maggio festeggiamo il compleanno del centro sociale, oltre alla festa del non lavoro, che è un appuntamento molto importante e coinvolge tutti i laboratori. Noi del teatro, per esempio, facciamo un giochino molto simpatico, lasciamo un microfono aperto, un microfono a disposizione, chiunque ha voglia di esibirsi o di dire qualcosa o di condividere un pensiero in qualunque forma e in qualunque lingua trova un luogo a disposizione. L'anno scorso ha funzionato molto bene, abbiamo iniziato alle 11 di mattina e siamo finiti fino a mezzanotte, insomma, quindi c'è un bel via vai. E quindi niente, la scadenza è più o meno quindicinale, di sicuro lo facciamo il mercoledì perché ci piaceva l'idea di, insomma, di donare un appuntamento che non fosse, diciamo, il classico appuntamento del weekend dove ci sono sempre un sacco di cose da fare a Roma. Allora ricordiamo il prossimo appuntamento con la rassegna Fortepiano con Davide Viviani in live acustico il prossimo 18 aprile al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino. Riccardo, in chiusura ci lasci i riferimenti web per seguirla? Assolutamente, allora su Facebook ci trovate come Teatro Forte, su internet ci trovate all'indirizzo del Forte Prenestino che è www.forteprenestino.net e lì trovate, insomma, oltre alle iniziative del teatro, nello specifico di Fortepiano per questa settimana, tutte le attività del centro sociale. Su Facebook ci potete chiedere tutte le informazioni del caso, anche relative alla sala teatrale stessa che è a disposizione per le compagnie, per prove. chiave o per proporci spettacoli. Riccardo, un abbraccio, un in bocca al lupo e ci si sente presto. Buona giornata, un saluto a tutti.